Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico di Mestre, quindi saluto subito Gianluca Codognato che è con noi al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e buongiorno ai radioascoltatori. Allora Gianluca, oggi parliamo di cure, perché quando si sta male teoricamente uno dovrebbe andare a farsi curare. Sì, diciamo che insomma quando uno sta tanto male poi alla fine sì, si affida alle cure della sanità, però Francesco, come sappiamo bene, ha un certo costo anche la sanità italiana, per quanto in alcune zone sia abbastanza efficiente, in altre meno, però stiamo notando come negli ultimi anni più di qualcuno, soprattutto persone anziane, rinunciano addirittura a farsi curare proprio perché hanno paura di dover affrontare delle spese troppo elevate, ma non solo, anche perché non accettano delle liste d'attesa che a volte veramente sono, tra virgolette, vergognose. Per cui purtroppo ci troviamo di fronte a un fenomeno che non è piacevole, di persone, ripeto, soprattutto anziani, ma anche giovani precari, che piuttosto che andarsi a curare, insomma, tirano avanti anche con dei malanni che, chissà, magari possono anche peggiorare col tempo. Sottolineiamo che questa è una fotografia che ha fatto il Censis, una recente fotografia, e che dimostra come gli italiani che nel 2016 non si curano per problemi legati al ticket o alle liste d'attesa sono diventati 11 milioni, quando due anni fa erano 9 milioni, quindi insomma in due anni sono aumentati di 2 milioni gli italiani che devono rinunciare alle cure per questi due motivi, ma soprattutto cioè, ticket e liste d'attesa, ma soprattutto per i ticket, quindi soprattutto per una spesa che molto spesso non si sa neanche a quanto ammonti. Ecco, una delle cose che di solito si lasciano correre è quando hai dei problemi ai denti, no? Perché lì la sanità pubblica è molto carente, molto, e quindi bisogna per forza rivolgersi a studi privati con spese anche molto elevate, da qui il turismo dentale, da qui anche le dichiarazioni di emergency che fortunatamente riesce anche a porre in alcuni luoghi dei rimedi a queste falle pubbliche, diciamo così. Sì, tra l'altro introduce un argomento che è molto delicato, perché noi di recente in realtà è da tempo, ma soprattutto negli ultimi anni, ed è legato proprio a questo fenomeno, stiamo seguendo tantissimi casi di persone che hanno avuto problemi con il proprio dentista. Non stiamo parlando solo di problemi con i nuovi studi, quelli che hanno pluripoltrone, diciamo, e quindi sono un po' gli studi low cost, ma anche con lo studio normale del privato, del dentista classico. E devo dire che proprio perché la gente magari spende molto per andare dal dentista quando ci va, pretende chiaramente un lavoro fatto ad arte, e quando c'è qualcosa che non va corre subito da noi per contestare i lavori. Tra l'altro abbiamo veramente situazioni di persone che hanno avuto grosse problematiche con i denti proprio per lavori fatti male. Tutto questo è proprio vero, il dentista è la spesa più grossa, e magari uno dice va bene, a un dente rinuncio perché comunque posso tirare avanti lo stesso. Però in generale è nell'ambito di tutta la sanità che purtroppo le persone cominciano quasi, come dice il Censis, a preferire la sanità privata, che a volte garantisce addirittura delle cure molto più rapide, questo è sicuro, ma a volte a prezzi quasi simili a quelli richiesti invece dai ticket nelle varie regioni italiane. Ticket che bisogna dire variano da regione a regione e che non sono mai certi, perché per esempio se tu vai in un pronto soccorso, tu sai che nella nostra regione il ticket vale tot, nella nostra regione a seconda anche dei territori, però può essere che dopo tu debba fare altri 2-3 esami per cui devi pagare altri 2-3 ticket, a volte veramente esci con una spesa notevole per cui purtroppo più di qualcuno comincia a rinunciare veramente a curarsi. Ecco, questa è una cosa che non dovrebbe esistere in un paese tra virgolette normale, e quindi notiamo un peggioramento rispetto al passato. Tu parlavi di liste d'attesa importanti, devo dire che mi è capitato di vedere in televisione la vicenda di una mamma che era restata incinta e non trovava la possibilità di fare le ecografie, quelle che lo Stato passa normalmente, ce ne sono almeno tre, e le liste d'attesa duravano più di un anno, quindi il bambino praticamente sarebbe già nato senza aver fatto neppure un'ecografia. Aveva fatto anche il giro di parecchi ospedali. Questa cosa, lo ricordo personalmente, succedeva anche 10 anni fa, quindi forse alcune cose non sono proprio cambiate né migliorate. Allora, è vero questo, è vero che anche per certi versi sicuramente anche la forte immigrazione registrata negli ultimi anni ha sicuramente fatto allungare queste liste, perché chiaramente aumenta un po' la popolazione che si rivolge alla sanità. Tra l'altro il Censis sottolinea che 3/4 delle persone che si rivolgono poi alla sanità privata lo fanno proprio perché al di là dei costi vogliono aggirare proprio queste liste d'attesa, che a volte abbiamo letto anche sui giornali e sono veramente scandalose, perché anche se magari una persona magari anziana non ha bisogno di una visita urgentissima, insomma aspettare 3 anni per fare certi tipi di esame, insomma, è anche assurdo. Tra l'altro, Francesco, abbiamo letto anche di storie di persone che avevano invece malattie di un certo rilievo, anche patologie neoplastiche, quindi tumorali, per le quali comunque gli esami sono stati rinviati anche di parecchi mesi. Sono casi estremi, perché noi sosteniamo che ancora in gran parte d'Italia, soprattutto nel nord, comunque la sanità non sia pessima assolutamente, però insomma ci sono grossi margini di miglioramento, e questi dati del Censis certo non ci fanno sorridere assolutamente. E va bene, ricordiamo quindi che se avete qualche problema magari può essere utile chiedere un aiuto direttamente all'Adico, www.associazionedifesaconsumatori.it è il sito dove poi trovate i contatti telefonici. Grazie a Gianluca Codognato, a tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.